Giallo 24. In collaborazione con Giallo Mondadori, a cura di Raffaella Calandra. C'è chi li legge sotto l'ombrellone e chi li segue in TV. C'è chi si appassiona a quelli seriali e chi ogni volta cerca un brivido nuovo. Insomma, il giallo piace, ma quest'estate, se invece di metterli in valigia li scriveste direttamente voi dei gialli, che dite? Noi diciamo di sì. E dice di sì insieme a noi anche il direttore del giallo Mondadori, Franco Forte. Tutti gli italiani leggono gialli, ma quanti saprebbero risolvere un delitto in 3 minuti? La sfida di Radio 24 e il Giallo Mondadori è questa: dare agli appassionati la possibilità di diventare loro, per una volta, gli autori di un mistero in 2 puntate. Una adatta alla radio e una che potrebbe entrare a far parte di un'antologia del Giallo Mondadori. Tutti i dettagli su radio24.it e ilgiallomondadori.it. Potete provarci fino a fine luglio, senza paura. Cosa può spaventare di più una donna che temere per la vita della figlia? A volte certi incubi possono anche annebbiare i pensieri, come è successo alla protagonista di questo giallo 24, Mary a novembre di Marzia Musneci. Chi è questo che vuole da me? È entrato in casa mia con Serena, mia figlia. Bastardo. Lei ha solo 4 anni. Mi chiama con un nome che non è il mio. Dice che non mi ricordo le cose. Io me le ricordo bene, invece. Sono Maria Campi, in arte Mary. Faccio la prostituta. E lui è un lurido assassino. In 3 settimane ha ucciso Lily, Kat e Pussy. Adesso tocca a me. Chissà come farà. Di solito si prende tempo, ci mette un giorno intero a farci fuori. E qua sotto è pieno di polizia. Glielo ripeto. Ammazzami come ti pare, ma fa uscire Serena. Ride. Punta la pistola alla testa di mia figlia. Urlo. Un colpo. Il buio. Il commissario Le Rose guarda la donna nel letto d'ospedale. Dorme. Sono giorni che dorme, Maria Campi, che neanche si chiama così. Sta bene, dicono, ma non vuole svegliarsi. Non succederà, vero? Chiede a Marianna Castaldi, la profiler della questura. Non recupererà la memoria. Lei scuote la testa. Difficile. Forse 10 anni fa ha assistito alle sevizie di una prostituta a Parma, a opera del killer. Un trauma così forte che ha rimosso tutto, anche l'identità. E ora l'assassino l'ha trovata. Le ha ucciso 3 amiche e l'ha sequestrata con la figlia. Il nostro cecchino ha sparato mentre il killer puntava la pistola alla testa di Serena. Forse Mary ha perso conoscenza prima di capire che il colpo ha ucciso lui, non la piccola. Il rifiuto può essere totale. Insomma, non sapremo mai com'è andata a Parma. Di 3 che sapevano, 2 sono morti e l'altra non sa neanche chi è. Lei è Federica Dal Fosso, sparita nel 2002, che è finita a fare la prostituta a Roma. Congetture, Marianna. Le prove le ho eliminate io quando ho ordinato di sparare a quel bastardo. Serena è viva e quel pazzo è morto. Me l'hanno detto appena mi sono svegliata. E allora va bene, va tutto bene. Ho dormito per giorni, pare. C'è questo Le Rose. Uno sbirro gentile. Però anche lui dice che non ricordo le cose. Mi parla di una certa Federica Dal Fosso. Ma chi è? Io non lo voglio sentire, quel nome. Mi chiamava così, quello che per poco non ammazzava mia figlia. Glielo dico chiaro. Lui ci resta male. Non mi importa. Mi importa solo di Serena. Devo uscire. Lei mi aspetta. L'assassino seriale, dunque, in questo caso di prostitute. Ciclicamente la cronaca registra i delitti a ripetizione dei killer, divenuti anche uno degli archetipi del giallo, come il ritorno dei commissari. Tra questi il gorilla, creato da Sandrone Dazieri, presto in libreria con l'uomo dei silos. Una delle cose più ricercate dai lettori e degli appassionati è il ritorno dei loro eroi o antieroi. I buoni sono di 2 tipi. C'è quello che non invecchia mai e non cambia mai, come il vecchio giallo classico, come Perry Mason, per esempio, che ricominciava sempre dal suo ufficio e non invecchiava. E poi ci sono quelli invece che invecchiano, cambiano libro dopo libro, per esempio Montalbano di Camilleri, per esempio il mio gorilla che cambia, invecchia insieme con gli anni che passano dei libri. Per quanto riguarda i cattivi, invece, il killer seriale è uno dei grandi archetipi del giallo, soprattutto del thriller. È esploso come idea con Il silenzio degli innocenti negli anni 80 ed è rimasto l'assassino seriale un must per il thriller. Quello che uccide con un movente legato alla pazzia piuttosto che a dei motivi oscuri e che fa paura proprio perché non sai come fermarlo. Con tanti omicidi vuole nascondere un omicidio importante per lui, è il famoso ABC Murder che ha inventato Agatha Christie in qualche modo. Invece l'assassino seriale, inteso come serial killer, si muove con delle pulsioni simili a quelle sessuali, fa paura per questo perché sceglie delle vittime e le insegue, le colpisce. Per riascoltare questo Giallo 24, come tutti gli altri, vi ricordo il sito radio24.it. Diteci cosa ne pensate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.